Salve! Inizia qui il corso di memoria, lettura veloce e metodologia di apprendimento. Occorre fare subito delle precisazioni. Quanto vi presentiamo è frutto dell'esperienza di anni a diretto contatto col pubblico e si basa su tecniche nate dall'intuizione dei grandi geni del passato, come Simone di Diceo, Cicerone, Pico della Mirandola o Giordano Bruno, e sviluppate nei secoli fino ai giorni nostri da altri studiosi e tecnici. I risultati dei corsi praticati dal vivo sono stati sempre molto soddisfacenti, spesso superiori alle aspettative degli allievi stessi. Infatti, normalmente, l'allievo inizia a frequentare con un certo scetticismo, ma poi puntualmente si trova a raggiungere risultati e capacità inaspettate. Scopre di essere in grado di ricordare cose che non pensava nemmeno lontanamente di sapere ancora. È questa nostra esperienza che vogliamo trasmettere ad un pubblico sempre più ampio, avvalendoci di un mezzo molto importante. Le audiocassette con le voci degli istruttori, che porteranno a casa vostra l'immediatezza dei corsi dal vivo, ricreando il tipo di coinvolgimento legato alla presenza degli istruttori stessi. Sarà la voce a condurvi settimanalmente alla scoperta di segreti e strategie della mente, ad insegnarvi i corretti procedimenti e a coinvolgervi nelle lezioni. Naturalmente disporrete anche di un manuale che settimana dopo settimana vi servirà per gli esercizi e vi darà tutta la documentazione scientifica di supporto necessaria per una migliore comprensione delle tecniche proposte. Le audiocassette possono essere ascoltate anche in automobile, sfruttando quel tempo prezioso che il mezzo ci ruba ogni giorno. Il corso è articolato in lezioni settimanali che si sviluppano appunto in un'audiocassetta e in un capitolo di manuale, ognuna con un argomento specifico. Seguendolo scrupolosamente, ogni volta vi accorgerete di aver imparato qualcosa di nuovo, di aver aggiunto un tassello al mosaico finale. Non trascurate alcun argomento, anche se alcune lezioni vi potranno sembrare meno interessanti di altre. Trascurarne una comprometterebbe infatti il buon apprendimento di quelle successive, modificando quindi il risultato. Sul manuale, una parte di ogni lezione è dedicata allo sviluppo scientifico e tecnico di un argomento e un'altra all'esercitazione pratica attraverso test iniziali, esercizi e test di verifica. Il fine del corso è quello di imparare ad apprendere correttamente per fissare con metodo nel magazzino della memoria tutto ciò che apprendiamo. La prima regola da conoscere e da seguire è di prestare il massimo di attenzione, ossia quella di imparare a concentrarsi in varie situazioni per poi essere in grado di apprendere velocemente e in modo duraturo. L'attenzione è solitamente condizionata dal nostro atteggiamento mentale, che può essere definito attivo o passivo. I due modi si differenziano naturalmente a seconda del diverso interesse che ricaviamo da ciò che stiamo facendo. Si è passivi quando i nostri sensi non vengono sollecitati, soprattutto durante la lettura e l'ascolto. Viceversa, quando si crea un coinvolgimento, la nostra attenzione diventa attiva. Questi meccanismi in genere si sviluppano spontaneamente. Il nostro fine è allora quello di insegnarvi a comandare la vostra mente in modo da poter essere sempre pronti a indirizzare in modo attivo la vostra attenzione. La 12ª lezione del corso è dedicata appunto all'ascolto. Imparerete quindi i metodi più efficaci per indirizzare l'attenzione in maniera attiva. Facciamo insieme ora un'altra piccola riflessione. Prendiamo ad esempio una qualsiasi materia. Potrebbe essere interessante oppure no. Non è questo però un concetto univoco, ossia sarà noioso o interessante a seconda delle persone che l'affrontano. Credo che fin qui tutti siano d'accordo. Pensiamoci un attimo. Perché ciò avviene? O meglio ancora, perché non troviamo interessante una materia e siamo invece attratti da altre? La risposta non è così ovvia come potrebbe sembrare, perché dipende dai meccanismi di condizionamento o rimozione avvenuti nella vita di ognuno già dai primi anni scolastici rispetto al metodo di studio adottato dall'insegnante o a casa dai genitori. Occorre rimettere ordine quindi in questi processi lontani e cercare per il futuro di governare la situazione imparando a guidare, come già detto, la nostra mente. Definiamo perciò con esattezza quello che sarà il nostro compito insieme, ribadendo l'importanza della cassetta. Finora siete stati sempre abituati a studiare leggendo, e leggere implica uno stato d'animo diverso ogni volta, a meno che non si conoscano già elementi di metodologia di studio. Imparando ad apprendere insieme a noi, vi sentirete spesso invitati ad eliminare gli altri pensieri, ad essere più concentrati e stimolati, a seguire attivamente delle istruzioni e a pensare talvolta in modo non abituale. Il sistema ottimale per seguire il presente corso è di ascoltare la cassetta guardando contemporaneamente il fascicolo, poiché spesso la voce dell'istruttore vi fa rimando. Poi si riprenderà in mano il testo e si eseguiranno tutti gli esercizi. Un'ultima raccomandazione. La presentazione dell'opera, in particolare la premessa, dovrà essere letta con molta cura, poiché in essa sono contenute le indicazioni indispensabili per seguire correttamente il corso. E ora iniziamo con il primo argomento pratico, il rilassamento. Ribadendo il concetto dell'importanza di seguire l'ordine numerico delle lezioni, cominciamo a spiegare perché la prima lezione è dedicata proprio al rilassamento. Sapete perché non ricordiamo? Per due motivi. O l'informazione non è stata ben memorizzata, perché nella fase di input la mente era sovraccarica di idee o pensieri. Oppure, nel momento del richiamo, siamo preoccupati o ansiosi, così che i ricordi non sono gestiti correttamente. In entrambi i casi il rimedio ottimale è il rilassamento muscolare e la tranquillità mentale. Esiste, in tale proposito, una semplicissima tecnica derivata dalla meditazione orientale. Non è strettamente necessario ricorrere a discipline come lo yoga o il training autogeno per riuscire a rilassare la propria mente. In realtà si può ottenere un buon risultato anche in pochissimo tempo. Ovviamente utilizzeremo questa tecnica per uno scopo prevalentemente mnemonico, anche se il nostro corpo ne ricaverà sicuri effetti benefici più in generale. Non dimentichiamo che il passare dei secoli e lo sviluppo tecnologico hanno gradualmente condizionato il nostro modo di vivere, obbligandoci ad una progressiva specializzazione della mente cosciente a scapito dell'inconscio. Nel lavoro, infatti, trascorriamo gran parte del tempo nella fascia delle onde cerebrali beta e pochissimo nelle altre fasce. Questa abitudine sociale, di conseguenza, ha indebolito la mente subconscia, appesantendola con problemi come lo stress e allontanando le capacità tipiche degli stati alfa. Ecco Recenti esperimenti hanno dimostrato che quest'ultima fascia di onde cerebrali è caratterizzata da maggiore concentrazione, creatività, memoria e prontezza di riflessi. Inoltre, coloro che praticano le discipline che sfruttano le onde alfa riescono a mantenere in buona efficienza l'intero corpo e ad adottare abitudini mentali idonee per una vita più sana. A questo punto crediamo d'aver esaurito, speriamo in modo chiaro, tutto quanto andava premesso per intraprendere il corso. È la prima lezione del nostro corso. Vogliamo insegnarvi ad ottenere un rilassamento completo. Per eseguire bene l'esercizio, è importante aver prima letto attentamente la teoria riportata nel capitolo allegato alla cassetta. Assicuratevi di non essere disturbati per i prossimi 20 minuti. L'essere interrotti durante l'ascolto, infatti, potrebbe causare disturbi simili a quelli che si provano quando si viene svegliati all'improvviso. Se tutto è tranquillo, potete iniziare proprio mentre comincia la musica. Vi insegneremo una tecnica che renderà più piacevole la vostra vita quotidiana. Vi illustreremo, infatti, come arrivare a un buon rilassamento fisico e mentale. Questo metodo vi servirà non soltanto per favorire la memorizzazione, ma vi sarà utilissimo in qualunque circostanza della vita che richieda di allentare la tensione ed eliminare lo stress. Imparerete come si riesce a rilassarsi stando seduti in una poltrona, in ambiente tranquillo e silenzioso. Ma col tempo e con l'allenamento sarete capaci di rilassarvi in qualunque situazione, in ufficio tra un appuntamento e l'altro, in mezzo al traffico o davanti ad una commissione d'esame, e scoprirete quanto sia gratificante avere tale capacità. Prima di iniziare, vi chiediamo di seguire attentamente le istruzioni che vi daremo. La cosa più importante è che qualunque esercizio facciate, non vi sforziate, ma vi lasciate andare. Vi rilassiate. Abbiamo bisogno di un punto di partenza. Un punto piccolo e preciso. Visualizzate perciò un paesaggio al tramonto, con il sole che emana una luce fioca. Mentre iniziate ad immaginare questa scena, chiudete pure gli occhi per vederla mentalmente. Molto bene, chiudete gli occhi. Visualizzate il sole che tramonta e lentamente sparisce, lasciando visibili solo i raggi, come piccole linee. A questo punto, immaginate che dove confluiscono le linee, lì nasce un puntino, un piccolo puntino luminoso. Voi potete vederlo. immaginarlo. E questo puntino luminoso, lentamente, molto lentamente, si stacca dall'immagine che voi avete creato e ricreato nella vostra mente con gli occhi della vostra mente. Questo puntino lentamente si stacca e si avvicina sempre di più a voi. Man mano che il puntino si avvicina, diventa sempre più luminoso. Mentre il puntino si avvicina, diventa sempre più luminoso. Poi il puntino continua ad arrivare verso di voi. Diventa sempre più grande. Sempre più luminoso. E si dirige sempre di più verso la vostra fronte. Il puntino si avvicina sempre di più e voi vi sentite tranquillamente rilassati. Ricordate che appena il puntino toccherà la vostra fronte, voi vi sentirete tranquillamente rilassati, profondamente rilassati. Il puntino diventa sempre più grande, sempre più luminoso. Voi siete sempre più tranquilli. E ora è quasi vicino alla vostra fronte. Ecco, sta quasi per toccare la fronte. Ricordate che appena toccherà la vostra fronte ed entrerà all'interno di voi, voi vi sentirete tranquilli, profondamente rilassati fisicamente. Ecco, adesso immaginate che entri dentro la vostra fronte. Sentite la pelle che copre il capo rilassarsi. Sentite la pelle che copre il viso rilassarsi sempre di più. Tutto si rilassa dentro la vostra testa. Questa parte del corpo viene messa in uno stato profondo di rilassamento. Dentro la vostra testa, questo puntino diventa sempre più luminoso e invade, oltre alla testa, giù, anche il collo, che si sente sempre più rilassato. Lo sentite sempre più rilassato. La parte interna e la parte esterna del collo. Lentamente, il puntino luminoso invade sempre più giù le varie parti del vostro corpo. E voi vi sentite sempre più tranquilli. Il vostro fisico si sta rilassando sempre di più. La luminosità invade le spalle e voi le sentite profondamente rilassati. La luminosità ora invade il torace, le braccia, le mani. E voi vi sentite profondamente rilassati. Queste parti del vostro corpo entrano a un livello molto più profondo di rilassamento. E la luminosità invade la parte superiore del torace e la parte inferiore, fino ad arrivare all'addome. Tutti i vostri muscoli di queste parti si rilassano profondamente. Tutti gli organi interni ed esterni sono in un profondo benessere. Rilassate bene la vostra vita. Mettete questa parte in uno stato di rilassamento sempre più profondo, più e più profondo ogni volta. Poi la luminosità invade anche le vostre gambe e voi rilassate i vostri muscoli, tendini, legamenti delle vostre gambe. Sentite la tensione nelle ossa delle gambe che si dissolve come luce nell'aria e le vostre gambe si rilassano profondamente, sempre di più, finché la luminosità invade anche i vostri piedi e voi vi sentite tranquillamente rilassati, profondamente rilassati. Questo è il livello del vostro rilassamento fisico, dove siete un immenso globo di luce che fluttua e si rilassa sempre di più. Il puntino, che è diventato un globo di luce, è il vostro rilassamento fisico. E adesso immaginate che questa luce crei intorno a voi un grande cerchio, un grosso cerchio che si proietta davanti a voi e diventa un grande lago. Vorrei che questo cerchio, che ora è un lago, sia l'ancora per il vostro rilassamento mentale. Questo grande lago ha delle onde abbastanza alte che si infrangono sulla riva. Vorrei che la vostra attenzione si rivolgesse proprio a questo, a queste onde che prima erano bianche perché si voltavano e cadevano su se stesse prima di arrivare sulla riva. Adesso diventano delle semplici onde che lentamente, molto lentamente, toccano la riva e l'accarezzano sempre di più. Man mano che le onde diventano sempre più piccole e la vostra mente si concentra solo su questo particolare, voi state raggiungendo il rilassamento mentale. Concentratevi sulle onde e fatele diventare sempre più piccole, fino a che quasi non c'è più nessuna increspatura dell'acqua. Questo lago sta diventando una superficie liscia, perfettamente ferma. L'ultimo accarezzare dell'acqua e poi tutto perfettamente fermo. Fermate la vostra mente lì, su questo stato di immobilità. Fate diventare questo particolare fermo come un grande poster, come una fotografia. Tutto immobile, fermo. Il tempo non esiste più. Lasciate la vostra mente ancora in questo stato. E poi, questo lago che ridiventa un cerchio enorme, ha tanti raggi che partono da questo cerchio. E il cerchio con i raggi è quello che chiamiamo piano basico mentale. Restate perfettamente rilassati, dove il vostro corpo, la vostra mente, sono in uno stato di perfetto benessere. Questo è il piano mentale che potete usare per il vostro beneficio. Fra poco io farò silenzio per un po'. E vorrei che voi vi trovaste in un luogo tranquillo e piacevole della natura, un posto dove possiate stare completamente a vostro agio, rilassati e felici. Farò silenzio ora. Molto bene. Lasciate pure il vostro ambiente felice e preparatevi a terminare il rilassamento. Vi trovate di nuovo il globo di luce ai vostri piedi. Fra poco risalirà dentro di voi fino ad uscire dalla fronte e a tornare al suo posto. Quando il puntino sarà uscito, vi sentirete in pace e in armonia totale con voi stessi e con la vita. La luce comincia a entrare ed entrando vi fa riprendere consapevolezza dei piedi e delle gambe. Salendo sempre di più risentite tutti i tendini e i muscoli fino alla vita. Ricordate, quando la luce sarà ridiventata un puntino e sarà uscito dalla vostra fronte, voi sarete completamente svegli, in pace e armonia totale con voi stessi e con la vita. La luce sta salendo. Ora è nell'addome, poi nel torace. Sale ancora, è nelle vostre braccia e voi siete sempre più svegli. Ora la luce è arrivata alla testa e voi siete ancora più pronti. Il puntino adesso è nella vostra fronte, sta uscendo e ora torna al suo posto nel disegno iniziale. Aprite pure gli occhi. Siete completamente svegli, riposati e in armonia totale con voi stessi e con la vita. Stendete lentamente tutti i vostri muscoli. Preparatevi a proseguire ogni vostra attività con rinnovata energia. Siete perfettamente riposati, come se aveste dormito profondamente diverso tempo, e tutti i muscoli sono pronti ai vostri comandi. Buona giornata. Thank you. Eccoci di nuovo insieme. Oggi vi presentiamo la prima lezione della parte del nostro corso dedicata espressamente alla memoria. Iniziamo dalle prime semplici tecniche. L'argomento odierno è la visualizzazione. Prima di cominciare, però, vogliamo fare una premessa molto importante. Vogliamo spiegare l'impostazione generale che è alla base di tutto il nostro corso, cioè di quanto cominciamo a fare da adesso e di quanto andremo a fare in seguito. Il nostro corso non è soltanto l'esposizione di un sistema per ricordare meglio o un insieme di trucchetti mnemonici per leggere o apprendere più in fretta e per avere risultati migliori a scuola, nel lavoro o nella vita in genere. In realtà, attraverso quanto vi andremo via via esponendo, ognuno di voi sarà messo in grado di cambiare addirittura il suo modo di pensare e di acquisire il tipo di atteggiamento verso la vita più adatto al miglior sfruttamento delle sue grandissime capacità innate, troppo spesso pochissimo sfruttate. Possiamo raccontarvi un'antica leggenda. C'era una volta un giovane indiano. Da molte ore viaggiava nel deserto a dorso di cammello ed era stanchissimo. Poiché stavano scendendo le prime ombre della sera, decise di trovare un rifugio per la notte. Si guardò in giro e scorse una grotta. All'interno c'era anche un po' di paglia e il giovane poté sdraiarsi comodamente. Stava per addormentarsi quando all'improvviso sentì una voce molto potente che gli disse: «Ragazzo, segui il mio consiglio. Raccogli quante più pietre puoi tra quelle che ci sono in questa grotta e mettile nel tuo sacco». Il giovane si alzò con un balzo, ma non vide nessuno accanto a sé. E allora pensò che dovesse trattarsi della stanchezza, o forse perfino delle conseguenze di un colpo di sole. Decise di non badarci e si sdraiò di nuovo. Ma nuovamente sentì il vocione che diceva le stesse parole. «Amico, segui il mio consiglio. Raccogli quante più pietre puoi di questa grotta e mettile nel tuo sacco». Un po' preoccupato, il giovane si addormentò. Il mattino, dopo essersi alzato e preparato per il viaggio, ripensò improvvisamente all'episodio della sera precedente e, prima di rimettersi in viaggio, disse fra sé: «Ieri sera dovevo essere veramente stanco per sentire addirittura delle voci. Penso che in quanto ho creduto di sentire non ci sia niente di vero, ma prendo lo stesso qualche sassolino da questa grotta. In fondo non mi costa nulla». L'indiano viaggiò per tutto il giorno. A sera, arrivato in vista del suo villaggio, si riposò un attimo e aprì il suo sacco per prendere una pezzuola e asciugarsi il sudore. Con enorme meraviglia, scoprì che i piccoli sassolini che aveva raccolto si erano trasformati in diamanti. Immaginate il rammarico del giovane indiano nel ricordare che la grotta era piena di pietre di tutte le misure. Lo scopo di questa storiella è solo quello di farvi riflettere. La vostra mente, come abbiamo già accennato e come ribadiremo in seguito, è un vero capitale, utilizzato in minima parte. Chissà, anche voi forse potreste un giorno scoprire qualche tesoro usando la vostra mente in modo attivo. Già, potrete ribattere, ma questo è un corso per potenziare le proprie capacità mnemoniche. Come può farmi trovare dei diamanti? Riflettete solo un attimo. Forse avete ragione, questo è solamente un corso di memoria, ma forse no. Forse è qualcosa di più. Quindi il nostro consiglio è: seguite tutte le lezioni nel miglior modo possibile, esercitatevi assiduamente, non prendete solo qualche sassolino, rischiando di trascurare il grosso del tesoro nella grotta abbandonata.